Non so se sai, Deborah, però so. Abate sembra che insieme, gli è successo, sta benissimo, ma insieme a Ronaldo e Olivier Giroud, sì, è considerato uno dei giocatori più sexy di questi mondiali. Vabbè, io e i miei gusti non corrispondono a questi, ma prendiamo atto. Balotelli lo escludiamo perché ormai si sposa. Vabbè, ma è giovane, potrebbe essere nostro. No. Direi di no. Figlio, no. Fratello. Anzi, maggiore, fratello minore. Anche la corte. A me la barba di Pirlo, per me è lui. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare. Ci siamo fra 48 ore a quest'ora. Saremo in estate ufficiale, secondo le previsioni, proprio in occasione del solstizio previsto il 21 giugno alle 10:50. Tornerà il bel tempo che in questi giorni, lo sappiamo, è stato messo un po' in stand-by. Ma prima di pensare al sole, come vi anticipavo, pensiamo un po' alla nostra pelle. Allora oggi la perlustreremo palmo a palmo e la osserveremo con grande attenzione. Sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano. Se avete delle macchie, non tirate pietre, chiamate il nostro numero verde. Chiamateci subito all'800 24 00 24. È normale avere delle macchie, ce le abbiamo tutti, chi più chi meno, ma è meglio, come si dice, non trascurarle. Bianche, rosse, nere o color caffè latte, piano in rilievo, liscio irregolare, singole a multiple. Oggi parliamo di loro, di macchie cutanee, insieme al professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis Clinica Sant'Ambrogio di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. L'abbiamo catturata, eh? È un grande onore avere qua il professor Di Pietro in carne e ossa in studio. Professore, parliamo di macchie, possono essere presenti sin dalla nascita, comparire nel corso della vita, possono variare di dimensione, colore e aspetto, possono essere degli innocui inestetismi, invece essere la spia di qualcosa di più serio. Una cosa è certa, le macchie vanno tenute sotto controllo. E iniziamo quindi a osservarle. Quali sono le indicazioni che lei come dermatologo vuole dare ai nostri ascoltatori? Beh, sicuramente quando ci accorgiamo che una macchia o compare all'improvviso dove prima non c'era, sì, o quando una macchia già esistente comincia a muoversi, come diciamo noi dermatologi, cioè cambia forma, sì, si allarga, o se, e questo è un segno ancora di maggior pericolo, si ulcera, cioè si creano delle fissurazioni, esce magari un po' di sangue, sì, si formano delle piccole croste. O se la macchia comincia a dar fastidio, quindi si avverte un po' di prurito, di pizzicore. Ecco, quindi ogni volta che notiamo qualcosa di nuovo sulla pelle, o macchie nuove oppure macchie che si trasformano, è opportuno sentire il proprio dermatologo e quindi accertarsi che tutto sia in ordine. 800 24 00 24, iniziate a chiamare. Come vi ho anticipato, parleremo di macchie dalla testa ai piedi, parleremo di macchie cutanee, quindi, ma anche delle macchie che vediamo nel nostro campo visivo e anche delle macchie che a volte compaiono sui denti, anche sui denti dei nostri bambini. Ma intanto andiamo per ordine, cerchiamo di raccogliere un po' di informazioni, recuperiamole sentendo la nostra scheda. Negli ultimi tempi hai notato nuove macchie? Di che colore? Giallo, rosso, marrone o nero? E alcune di queste hanno cambiato colore? Sono localizzate in alcune parti del corpo? Viso, braccia, spalle, schiena? Oppure distribuite in modo uniforme? Alcune di queste sono cresciute rapidamente? Sono lisce o in rilievo? Ti hanno dato prurito o si sono ulcerate? Ti scotti facilmente al sole o ti sei scottato in passato? E qual è l'ultima volta che hai fatto un controllo? Allora tenetevi pronti, chiamateci, parleremo oggi di nei, di macchie solari, sono generalmente marroni più chiaro, di quelle gialle che noi chiamiamo comunemente le macchie di colesterolo, di quelle rosse, gli angiomi, gli angiomini. Insomma, tenetevi pronti, professore Di Pietro, passiamo a dire che nessuna persona può avere la pelle senza macchia. No, no, nessuna. Le macchie fanno parte della nostra vita, della nostra pelle. Abbiamo macchie un po' dappertutto, ma l'importante è che queste siano macchie buone. Quindi, e noi oggi cercheremo di capire un po' se sono macchie buone, e poi soprattutto oggi il professor Di Pietro ci farà fare un po' pace con le nostre macchie, vero professore? Ma sì, cercheremo di capire perché, anche perché le macchie non sono solamente una maledizione divina estetica, no? Per la nostra pelle, ma le macchie hanno un'utilità, ecco, qui cercheremo di capire perché vengono, e quindi anzi alla fine della giornata le ringrazieremo in molti casi. Lei è alta, ben fatta, di una bellezza devastante, con una fronte spaziosa, begli occhi, piacevoli ciglia, il viso ovale con piccoli nei sulle guance, che ad altro non servono che esaltarne la bellezza, il naso aquilino, la bocca sorridente, la pelle chiara e un seno che molte farebbero bene a evitare il confronto. Sì, il poeta francese Despot ha descritto la figura della contessa du Barry, sottolineando, come avete sentito, i nei che aveva sulle guance, perché nel Settecento i nei erano un vero e proprio strumento di seduzione. Forse adesso non lo sono più, ma una cosa è certa, è che aggiungano meno bellezza, vanno controllati. Professor Di Pietro, il neo per noi è una macchiolina, solitamente di color marrone scuro, ma ad osservarla con attenzione notiamo che i nei non sono tutti uguali, possono essere piani o in rilievo, più o meno scuri, piccoli o più grandini, sono tutti nei. Alcuni sono presenti dalla nascita, altri, come ha sottolineato lei, compaiono nel corso della vita. L'invito che vogliamo fare oggi ai nostri ascoltatori è di guardarli con attenzione, per cui per chi può mettersi davanti allo specchio, possiamo dire iniziate ad osservarvi, che tra l'altro è un verbo molto caro ai dermatologi, osservare. Cosa osserviamo? Bisogna osservarsi con attenzione e mantenere anche un po' di memoria, no? per la pelle. Bisogna osservare innanzitutto che il neo abbia una superficie regolare, sì, che abbia anche dei bordi regolari, mm-hmm, che sia simmetrico. Come si fa a capire la simmetria di un neo? Ecco, bisogna immaginare di dividerlo in due parti, sovrapporre queste due parti in modo che possano combaciare. Se queste non combaciano, vuol dire allora che non è simmetrico. Bisogna vedere i bordi, che siano lisci e che non siano frastagliati. Certo. E anche il colore, che deve essere uniforme. Quando vediamo un neo che presenta varie macchie, soprattutto che vanno verso il marrone scuro o nerastro, ecco, questo deve un pochino farci stare con più attenzione. Sì, magari parlarne con il medico, parleremo con il dermatologo. Il certo. Dermatologo, vedremo quando e chi in modo particolare deve controllarsi, se dobbiamo controllarci tutti o a partire da che età, ma... Ci sono le telefonate dei nostri ascoltatori, professore. Ci sono Roberto da Milano e Nadia da Parma. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Allora, posso esporre il mio problema? Certo. Che ho già. Deve abbassare però la radio, se no Carmelo Lauricella ci sgrida. Subito. Da un anno e mezzo delle macchie al di sopra della caviglia, e poi si allarga verso l'alto della gamba. Delle macchie rosse che sono partite, sembrava da un morsicone di qualche bestiolina, sì, davano prurito, e poi sono sempre rimaste rosse, ma hanno dato una cura con delle pomate per un'iperpigmentazione della pelle, però non va via, sono sempre rosse, a volte da un prurito poi smette, ma rimangono sempre delle chiazze rosse. Da un morsicone, sì, di una bestiolina forse, ma tutto è iniziato, sembra, diamo sempre la colpa ai ragnetti, Nadia, quando no, abbiamo qualcosa che prude o magari gonfia. Professor Di Pietro. Dunque, vista la zona, quindi gli arti inferiori, La prima cosa da pensare è che non ci sia qualche piccolo problema legato ai vasi capillari, che sono dei piccoli vasi sanguigni che ci sono sulla pelle e soprattutto sulle gambe. Per forza di gravità il sangue arriva, li gonfia. Certo. Soprattutto in alcuni casi, certo, tutto adesso quando fa più caldo si sta molto in piedi. Ecco, alcuni di questi capillari possono rompersi. Nel momento in cui si rompe, il sangue che fuoriesce tende a macchiare la pelle perché nel sangue c'è il ferro. Questo ferro si deposita ed ha delle macchie. Ecco, quindi la prima causa potrebbe essere di questo tipo. È logico che poi va vista la paziente perché potrebbe essere anche qualche altra forma, ma in genere le più comuni, le più banali sono queste e penso che sarà anche il suo caso. Quelle che vengono chiamate anche macchie di vino o sono un altro capitolo di macchie? Le macchie di vino sono degli angiomi, sì. Spesso si nasce con questi e quindi è un problema congenito in sì. Quel caso. Invece le macchie da rottura di vasi capillari si vedono in questo caso sulle gambe, ma possono osservarsi anche sul viso. Ad esempio macchie di questo tipo sono le classiche occhiaie sì. Che in molti si formano nella palpebra inferiore. Anna Magnani poi dopo era un esempio di questo e sono dovuti ad una fragilità capillare cronica per cui questi piccoli vasellini rompendosi esce una goccia di sangue, nel sangue c'è il ferro, questo ferro si accumula nei tessuti macchiando la pelle, quando il processo è cronico restano lì per sempre. Andiamo a Milano perché c'è Roberto che ci chiama, il nostro numero verde, state già chiamando intanto e vi ringrazio, così oggi facciamo una bella mappatura. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho un nero asimmetrico di dimensioni sotto, diciamo, come una moneta da un centesimo. Non è in rilievo, quindi è completamente liscio. C'è semplicemente un cambio di pigmentazione. Sì. Marrone scuro. Non uniforme. E è in crescita da, diciamo, 5-6 anni. Cioè, all'inizio avevo nulla. È cominciato un puntino che poi Roberto, posso lenta, chiederle se lei si è mai fatto controllare da un dermatologo o se tiene sì, ho i suoi nei sotto controllo periodicamente, poi ho cambiato città. È così. E il medico non mi ha dato il database delle foto. Ecco. Allora, professor Dunque, Di Pietro, Roberto racconta tante indicazioni del suo neo, alcune rientrano nelle caratteristiche che lei ha sottolineato. Alcune rientrano nelle caratteristiche che abbiamo appena menzionato, non bisogna però allarmarsi perché è molto frequente vedere un neo un po' asimmetrico anche con qualche variazione di colore. Diciamo che quando esternamente e visivamente solo con gli occhi si vedono queste caratteristiche diventa opportuno, utilissimo fare degli esami più approfonditi e il dermatologo ha degli strumenti per far questo, in particolare il dermatoscopio. È un'apparecchiatura che è in grado di ingrandire il neo di più volte, in genere dalle 30-50 volte in su, e permette di vedere anche all'interno della cute nei primi strati per vedere come la melanina in profondità è distribuita. Ecco, a secondo di certe caratteristiche che si possono osservare, in seguito a questo esame dermatoscopico si può dire con molta più sicurezza se quello è un neo tranquillo e lo si può tenere oppure se è conveniente toglierlo. Questo allora ci dà, ci consiglia di far vedere quando ci sono nei come quello del nostro ascoltatore, di assolutamente farlo vedere e fare un esame dermatoscopico, così si taglia la testa al toro. Professor Di Pietro, abbiamo parlato di controlli, tutti devono effettuare i controlli a partire da che età? O ci sono delle categorie di persone che devono tenersi in modo molto sotto controllo stretto? Penso ad esempio a chi ha familiarità. Certo, certo. Diciamo che ci sono alcuni soggetti, delle persone che più di altre devono tenere sotto controllo i propri nei. La familiarità, se ci sono stati dei parenti che hanno avuto dei problemi, tumori cutanei o melanomi, sicuramente questo è un dato che va tenuto presente. Avere tanti nei sulla cute è un altro di quei fattori che deve farci guardare con più attenzione la pelle, così come anche i soggetti che hanno capelli chiari, occhi chiari, pelle chiara e hanno tanti nei sono dei soggetti più a rischio. Quindi in generale tutti dobbiamo far vedere i nostri nei, già a partire dai 20-25 anni periodicamente una visita dei nei è opportuna. Una volta all'anno, ogni due, qual è la scadenza? Fino a 40 anni una visita ogni 2-3 anni può essere anche sufficiente, e dopo i 40 anni invece, quando l'incidenza del melanoma aumenta, sì, allora è opportuno ogni anno farli controllare. Il nostro ascoltatore, che non è un paziente per fortuna, ma il nostro ascoltatore prima menzionava ha un file con delle fotografie, no? Sì, che potevano essere state che fatte, sono rimaste dal medico. Che sono rimaste. Ecco, allora diciamo che può essere utile avere delle fotografie dei nei precedenti, ma non è indispensabile. Un dermatologo non decide di togliere un neo osservando le fotografie precedenti. Un dermatologo decide di togliere un neo nel momento in cui lo osserva, al di là di quello che poteva essere un anno, due anni. Quindi prima. L'album dei nei non serve. No, l'album serve dei nei, l'occhio clinico, esatto, del dermatologo, serve, supportato naturalmente da strumenti come quelli, certo, che lei ci ha descritto, che permettono di fare diagnosi. Sì, è il giudizio nel momento in cui si osserva il neo. Il qui e ora. Esatto, ecco, questo è il momento, togliamolo o non togliamolo, ma lo decidiamo adesso. Togliere o non togliere, Roberto dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, senta, io chiamo per un problema inerente a mia figlia, oggi ha 25 anni e ha un neo sulla guancia, ovviamente congenito dalla nascita, inizialmente era tutto piatto. Sì. Adesso invece è un po' in rilievo. È un po' in rilievo e lei non lo vuole. Non sta, è come avendo qualche, sta avendo qualche problema, anche perché fa un po' di quella peluria che cresce su, sta roba qua così, la signorina, insomma, certo, si sta iniziando un po' a preoccupare. E allora ha fatto già due o tre visite dal dermatologo e non ci sono problemi inerenti la pericolosità, tutto è sotto controllo in pratica, però ha anche detto che comunque volendo lo può togliere con il laser, sì, cosa che insomma lei adesso è un po' lì tra, dice lo tolgo, lo tolgo, e soprattutto lo tolgo, rimane, che cicatrice rimane, sarà peggio, sarà... Ecco, volevo un attimino... Anche perché, grazie Roberto, Roberto solleva anche un dubbio frequente nelle persone che pensano che a togliere il neo si rischi qualcosa. Sì, perché se sta lì... Che anche dorme. Bravo. Allora, Roberto e la figlia, questo neo con un po' di peluria sul viso, una ragazza giovane, quindi lo vuole eliminare, togliere per ragioni estetiche. Certo, allora sfatiamo subito un luogo comune. I nei possono essere tolti senza nessun problema e senza nessun rischio. Non è vero che togliere un neo sveglia il can che dorme e quindi, sì, può dare dei problemi. No, un neo viene tolto e quindi tutto poi finisce lì. Bisogna però sapere perfettamente che nel momento in cui un neo viene tolto resta una cicatrice, perché si toglie un pezzo di pelle e questa pelle poi deve cicatrizzare, no? Deve, sì, guarire, certo, la ferita. Le dimensioni, la qualità della cicatrice dipendono dalla profondità del neo che viene tolto e anche dalle dimensioni. Certo. Quindi pensare di togliere un neo e che tutto torni come prima, questo no, non è vero, bisogna saperlo ben in anticipo, altrimenti c'è il rischio di togliere un neo, resta la cicatrice e uno e poi si pente. E quindi la ragazza è... Ecco. Accennato al laser, prima di andare ai mercati, ma è possibile, è sicuro il laser? Perché sì, ecco, sulla asportazione, ecco, di un neo con il laser non tutti i dermatologi sono concordi. E io sono tra questi. È preferibile, secondo me, togliere un neo sempre chirurgicamente per poterlo esaminare al microscopio ed avere una diagnosi, un esame, certo, istologico, così si è tranquilli di aver tolto davvero un neo e non qualcos'altro. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, intanto noi vi aspettiamo qui insieme al professor Di Pietro. Se vedete nel vostro campo visivo delle macchie, iniziate a prenotarvi all'800 24 00 24. Come se vedete delle macchie sui vostri denti che spengono il vostro sorriso, o perché no, quello dei vostri bambini, anche loro possono avere delle macchie, chiamateci. Oggi smacchiamo la macchia. Cuore e denari. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. affrontare il tema del giorno. Parliamo di macchie cutanee, ma come anticipato non solo di macchie cutanee, ma anche di macchie che vediamo nel nostro campo visivo, di macchie che notiamo a volte guardandoci allo specchio sulla parte bianca dell'occhio, la sclera, e di macchie che possono spegnere il nostro sorriso, macchiarlo un po'. Torniamo naturalmente a occuparci della nostra pelle e qua in studio oggi con noi il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis alla Clinica Sant'Ambrogio di Milano, che professore è in, il primo istituto dermoclinico in Italia che si occupa proprio di pelle e di problemi legati all'invecchiamento. Certo, è un istituto dermoclinico dove i dermatologi si occupano a 360 gradi di tutti i problemi che riguardano la pelle, quindi non solo le eventuali malattie e patologie, ma anche tutti i problemi legati, sì, all'invecchiamento della pelle. Chi vuole restare bello, insomma. Sì, giovane in maniera naturale. Sì, perché il professor Di Pietro, lei passerà un po' alla storia come il nemico del botulino. Ha scritto anche un bellissimo libro. Adesso non vorrei affrontare questo tema sul botulino, perché per correttezza dovrei avere un suo collega che invece ne decanta le virtù. Però Il problema è che in un momento storico in cui si parla solo di virtù del botulino, mi sembrava corretto da medico informare che non sono solo virtù, non è solo tranquillo, ma possono esserci anche dei rischi. Quindi ho colmato un vuoto. Con un suo libro. Con un mio libro che è Botulin Free, oppure anche su internet si può trovare un libro, un ebook che è La verità sul botulino, verità sul botulino della Sperling Editore. Allora, sul botulino magari una volta faremo un pro e contro un suo collega che la pensa in un modo magari diverso, o avrete sicuramente dei punti in comune, ma chiuderei un attimo, mi sono allargata sul botulino, ma ritorno subito in casa, vicino a casa, Varese, c'è Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno professore, buongiorno lei. Buongiorno. Senta, io adesso non so se definirla macchia cutanea o neo rosso. Fatto sta che dopo i 40 anni, come mi era stato ampiamente preannunciato, noto su tutto il corpo la comparsa di questi nei rossi. Alcuni in rilievo, alcuni meno in rilievo, alcune dimensioni apprezzabili, alcuni assolutamente. Tutti rossi? Sì, tutti rossi. Sono delle capocchie di fiammifero. Sono come piccole. Più o meno, sì. Qualcuno mi parlava addirittura che erano degli infarti, tra virgolette. Infarti della pelle, mamma mia! Sì. No, ma quello che volevo chiedere al professore è vero, come dice mia suocera, che ormai è over 70 da un pezzo, probabilmente anche un'esperienza più ampia della mia a riguardo, che dopo un po' queste, ripeto, macchie o nei, perché non saprei definirli, scompaiono da soli? Dunque, allora, innanzitutto diciamo quando cosa crescono sono le seconde orecchie, no? Allora, sono degli angiomi, sono delle piccole formazioni legate ad un indebolimento della parete dei vasi capillari, dei vasi sanguigni. Quindi non sono altro che piccoli accumuli di sangue che si creano a pochi millimetri di profondità. Questa grossa goccia di sangue si estroflette e forma questo piccolo rilievo. Gli angiomi possono essere grandi come una capocchia di spillo o a volte anche una capocchia di fiammifero, quindi sono un po' più visibili. Non sono dei nei, quindi, ma sono piccoli capillari che si dilatano enormemente. Non sono pericolosi, bisogna solo stare attenti a non graffiarli, non traumatizzarli, perché se esce, comincia a uscire sangue, esce in abbondanza, quindi ci si spaventa. In questo caso bisogna comprimere la parte e aspettare che si formi il coagulo, quindi qualche minuto di compressione. Può stare tranquillo, quindi non c'è nessun problema. Vengono, è vero, in genere in età matura, quindi dopo i 40 anni, in chi è predisposto. Stia attento al calore, perché se sta al sole, si surriscalda molto, il calore fa arrivare più sangue, e se lei è predisposto ne vengono altri di questi angiomi. Però può stare tranquillo. Possono anche regredire, si riassorbono, anche questo in parte è vero. Oppure in questo caso con il laser possono essere asportati in pochi secondi senza nessun dolore e in maniera definitiva. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi. Sì, perché le macchie a volte compaiono nel nostro campo visivo. Si chiamano miodesopsie o corpi mobili vitreali, ma sono più noti come mosche volanti, puntini, filamenti, nuvole, ragnatele o altri corpi mobili che fluttuano nel nostro campo visivo. E per chi ne soffre, trascorrere una giornata al mare, leggere un libro, fare una passeggiata all'aria aperta, ma lavorare anche al PC può essere occasione di forte disagio. Ne parliamo oggi col professor Paolo Nucci, che è direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Professore, solitamente l'oculista rassicura il paziente che accusa questo disturbo, ma cosa è importante sapere? Ma insomma, il corpo mobile vitreale, diciamo la verità, è una condizione che ci porta tanti pazienti, quindi noi siamo contenti che i pazienti trovino questa occasione per venire dall'oculista. In realtà però, essendo una condizione estremamente frequente e non essendo tutti affetti poi da gravi patologie, vuol dire che è un piuttosto innocente. Sì, mal comune e mezzo gaudio. Mal comune e mezzo gaudio. E io quello che dico sempre ai pazienti quando vengono a trovarmi con questo problema, dico: anche io ce ne ho qualcuna, le ho chiamate per nome, oramai le conosco tutte, e quindi mi accompagnano nel quotidiano. Come le ha chiamate? Una Carolina l'ho chiamata. Come mia figlia. Ah, che bel nome. Ma le altre non gliele dico, che sennò poi magari troviamo delle affinità. No, per carità. Dicevo che il corpo mobile vitreale deve preoccupare soltanto in una occasione, quando si accompagna dei flash luminosi, cioè quando il soggetto che riavverte, ripercepisce, insieme nota anche dei lampi di luce, dice: ma cos'è? Mi hanno fatto una fotografia. Ecco, se questo succede vuol dire che in quel momento in qualche modo la retina è sottoposta ad una trazione, cioè è stimolata meccanicamente. E in questi casi naturalmente il controllo deve essere immediato, perché purtroppo insomma alcuni corpi mobili si accompagnano come esordio al distacco di retina, quindi li tranquillizzerei il 99,9% delle persone, ma se insieme al corpo mobile vitreale c'è una sorta di tendina che compare oppure un lampo di luce, in quel caso è opportuno rivolgersi ad un pronto soccorso oculistico. Professore, è vero che devono fare particolare attenzione a questi segnali le persone miopi? Beh, il miope è sicuramente sottoposto maggiormente al rischio di distacco di retina, ai problemi retinici, perché l'occhio del miope è più lungo, questo allungamento rende fragili le parti periferiche, quindi è probabile, più probabile che la retina abbia delle lesioni. Però non vivrei neanche da miope, io ho 4 diottri e mezzo di miopia, insomma tutto sommato vivo serenamente. Dovrei andare un po' di più dall'oculista. Quindi. Ecco, Boris, buongiorno, ci chiama da Forlì con una domanda per il professor Nucci. Sì, buongiorno, dunque ho 40 anni, soffro da qualche anno di presbiopia e mi sono comparse nella pupilla un paio di macchie marroncine. Nella pupilla o nella parte bianca o nella parte scura dell'occhio? Nella parte bianca. Nella parte bianca. Io volevo chiederle se secondo lei potrebbe essere collegato questo fenomeno di macchia con la presbiopia, che io ho trascurato e solo da poco ho iniziato a portare degli occhiali da vista per lavorare al computer, lavoro al computer diverse ore al giorno e progressivamente avevo iniziato ad allontanare sempre di più il giornale quando lo leggevo, quindi è arrivato quasi a una distanza massima. Sì, le braccia a questo punto erano finite devo dire con sorpresa, indossando gli occhiali ho scoperto il piacere della vista. Ecco, vede. Le svelo un segreto sulla sua situazione oculare. Aspetti, professor Nucci, non ci sveli il segreto, lo tenga lì. Sta per andare in onda il traffico. Subito dopo il traffico il segreto del professor Nucci. Cuore e denari. E dalla pelle al cuore che devo ritornare. Oggi sono molto fortunata, ho un dermatologo in studio con cui continueremo fino al termine della trasmissione a parlare di pelle. Non lo vedo, ma l'ho in linea, un oculista, il professor Nucci, pronto a svelare il suo segreto a Boris da Forlì. A me, che lo conosco da tempo, non mi ha mai svelato nessun segreto, arriva Boris e i segreti gliele dice. Vabbè, professore. Ma insomma, essere in diretta sempre ci dà questa possibilità di fare dei colpi di scena. Allora, dicevo a Boris che Quando una presbiopia insorge così precocemente e in maniera così pervasiva, cioè da dover necessariamente portare poi l'occhiale, allontanare molto, vuol dire che il paziente ha di suo, di base, un'ipermetropia, cioè ha già un difetto che lo rende più vulnerabile alla presbiopia. Quindi Boris ha soli 40 anni, se veramente non può fare a meno dell'occhiale per vicino, probabilmente anche ipermetrope, cioè anche un difetto per lontano, che giustamente l'oculista ancora non ha corretto, ma gli devo dare la brutta notizia che nel futuro dovrà mettere anche l'occhiale per lontano. Secondo, quindi forse Boris non era tanto contento di questo segreto, è arrivato per una macchia, adesso è presbite, ipermetrope, dovrà mettere anche gli occhiali, professore. Bisogna mai chiamare in televisione, in radio in diretta. Stavo dicendo che le macchie invece scure che vedo non hanno niente a che vedere con la presbiopia. Invece le macchie marroncine che compaiono nella pupilla, nella congiuntiva, nella parte bianca dell'occhio, sono abbastanza comuni e anche frequente che compaiono un po' tardivamente, e non sono altro che dei nei normalissimi che sulla congiuntiva hanno la loro localizzazione, una delle loro localizzazioni comuni. Non è affatto raro trovare dei nei sulla congiuntiva, quindi se sono delle macchie marroni ha senso che vengano viste. Se invece fossero delle macchie rosate, come sentivo il collega dire prima, è probabile che siano degli agglomerati di capillari che soprattutto dopo una certa età cominciano a comparire, e l'occhio, che tipicamente è bianchissimo nel bambino, tanto da sembrare quasi azzurro, poi nell'adulto diventa un po' rosato, è un colore un pochino così, un po' meno pulito. Professor Nucci, prima di salutarla, a proposito di bambini, si chiede sempre quando i bambini nascono e sembrano il colore dei loro occhi, quando si decide definitivamente? Il settimo mese possiamo già dire qual è il colore degli occhi. Non mi azzardo quasi mai a fare delle previsioni, perché la pigmentazione è un processo che dipende dal sistema nervoso simpatico e che si protrae per un po' di tempo. Quindi prima del settimo mese fare previsioni fa fare delle gran brutte figure agli oculisti. Perché sa che poi tutti i genitori dicono agli occhi blu, ma chissà se li tiene. Ecco, dal settimo mese in poi possiamo dire che sono veramente blu. Sono veramente blu, e se sono marroni o neri sono belli ugualmente. Grazie al professor Nucci, buona giornata. Professor Di Pietro, abbiamo ancora tantissime macchie di cui parlare, abbiamo le macchie color caffè latte che a volte vengono soprattutto a noi donne nel viso, nella zona, nel periodo della gravidanza, molte donne si macchiano, si chiama melasma, giusto? Sì, si chiama melasma, sì. Ma insomma noi donne combattiamo con le macchie, perché quando ci sono macchie sulle mani, quelle che indicano un po' gli anni che passano, macchie sul viso che forse sono un po' il regalo di un'esposizione un po' troppo senza protezioni, insomma noi tendiamo le macchie a volerle cancellare. Tutte le macchie si possono cancellare o schiarire con crema, togliere con il laser? Forse no, è il caso esatto, sì, perché la convinzione comune è che ormai siamo nel 2014 e quindi è possibile togliere tutte le macchie che vengono sul viso, perché sono quelle più antipatiche, no? Quelle più antiestetiche, o le macchie in generale. Sì. Non è proprio così, dipende dalla natura della macchia, dipende questa macchia perché la vediamo e perché è presente sulla pelle. Abbiamo accennato al melasma, che sono quelle macchie un po' diffuse, si estendono a macchia d'olio e che interessano zone caratteristiche del viso, intorno alle labbra, sembra di avere la bocca sporca di sugo dopo aver mangiato abbondantemente la pasta asciutta, oppure intorno alle palpebre, sulla fronte o in altre zone del collo. Ecco, le melanosi, il melasma è una macchia che dovremmo ringraziare, tutto sommato, sì. No? È una di quelle di cui dicevamo all'inizio. Quelle da tenerti amiche. Certo, e sono macchie che non dovrebbero essere aggredite, cancellate, questo perché in alcuni momenti della vita, legata a fattori ormonali, oppure perché abbiamo preso dei troppo farmaci sole, o abbiamo applicato sulla pelle creme profumate, ecco, il profumo è a rischio in questi casi, può succedere che la pelle diventi più permeabile ai raggi ultravioletti, cioè in quelle zone i raggi ultravioletti colpiscono la pelle come degli spilli e vanno più in profondità, distruggendo una grande quantità di cellule cutanee. Quindi si crea una situazione di pericolo, perché se tutte queste cellule vengono distrutte, alcune possono alterarsi e dar vita a un tumore della pelle. Sì. Ecco, in questa situazione il cervello, che regola e controlla tutto, si accorge che c'è un pericolo e allora ordina alla pelle di difendersi dai raggi ultravioletti, e l'unica maniera che la pelle ha di difendersi è produrre la melanina. La melanina è questa sostanza che crea un vero e proprio scudo alla penetrazione dei raggi ultravioletti. Il guaio è che questo scudo di melanina è colorato, certo, e allora compare la macchia. Ecco, quindi le macchie o le melanosi che vengono sul viso sono delle macchie buone, amiche, sì, quindi non cattive, perché è un meccanismo di difesa per difenderci dal sole nei punti dove la pelle è più fragile e più sensibile. Per fortuna queste macchie non durano tutta la vita, a differenza di altre che poi vedremo, ma durano un certo periodo, normalmente 3-4 anni, ecco, in alcuni casi anche 5. Perché nel corso di questi anni la pelle è più fragile, e quando poi il pericolo cessa, cioè la pelle diventa più forte, non c'è più bisogno di produrre tutta quella melanina, e quindi certo, le macchie pian piano non si ripresentano e se ne vanno. Se uno non si accanisce su di loro, certo, vero? I guai cercando invece, di toglierle. Ecco, i guai invece avvengono quando ci si accanisce su queste macchie cercando di volerle cancellare a tutti i costi. E allora si fanno laser, si fanno peeling, se si fa di tutto, di più, si grattano, sì, si fa. Ecco. Sì. Lei dice questo si è pericoloso. Fanno, ma perché uno va da un dermatologo e vuole togliere la macchia, ed evidentemente il dermatologo dice la togliamo. Beh, allora diciamo che un buon dermatologo dovrebbe dire no, la togliamo. Sì, deve innanzitutto capire la macchia di che natura è, di cosa si tratta. Allora, se la macchia è legata al fatto che invecchiamo, e allora dopo i 40 anni, 50 anni compaiono delle macchie legate all'invecchiamento della pelle, ma quelle sono macchie dovute ad un accumulo di cellule cornee, quindi cellule superficiali, sono le cellule morte che noi perdiamo, sì, continuamente, ma che in alcuni punti della pelle rimangono attaccate per tantissimo tempo. Allora, questo accumulo di cellule morte sono delle vere e proprie isole di cellule cornee sulla pelle, sono più scure e formano delle macchie, e queste sono macchie scure ma anche un po' ruvide, sì, che col tempo tendono anche a dispersirsi. Ecco, queste sono le cheratosi, che si le possono keratosi togliere. Queste si possono togliere perché è come un accumulo di sporco, certo, detto diciamo così, molto semplicemente, ma cellule morte. Mentre che rimangono le altre sono uno scudo, l'altro invece è uno scudo, è come una goccia di inchiostro che ha interessato tutto lo spessore della pelle, e quindi toglierle vuol dire indebolirle ancora di più, e allora anzi bisogna rendere la pelle più bisogna forte rinforzare. E noi tra casi, poco, sì, tra poco vi spiegheremo come rendere la pelle più forte dopo il GR. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi in compagnia del professor Antonino Di Pietro, parliamo della nostra pelle. Partirà ufficialmente l'estate il 21 e quindi ci sarà occasione per tanti di noi di prendere un po' di sole nei parchi, nel terrazzo della propria casa, in campagna, fuori porta. Allora noi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di dirvi, e ho chiesto aiuto al professor Di Pietro, prendetevi il sole in modo intelligente, sì, ma guardatevi anche prima un pochino la pelle per proteggerla nel modo adeguato. Ad esempio, chi ha molte macchie, chi ha tanti nei, deve utilizzare delle protezioni solari molto alte? Beh sì, certo. Allora, si vedono diciamo ogni tanto se le persone sì, a pois, perché si mettono la crema sul singolo neo almeno su quelli che sembrano più grandi. Certo. Dunque, innanzitutto noi siamo animali diurni, quindi il sole non è un nemico in assoluto, perché ci dà un sacco di energia ogni volta che ci esponiamo ai suoi raggi. Ciò che può essere pericoloso è l'eccesso, perché le cellule vengono distrutte in grande quantità e quindi si corrono dei rischi. Quando abbiamo tanti nei o abbiamo varie macchie sul nostro corpo, è ancora più utile e opportuno difendere la pelle. Le creme schermanti sono utili perché, soprattutto nei primi giorni, danno tempo alla nostra pelle di produrre la melanina, sì, che è l'abbronzatura. L'abbronzatura non è altro che una protezione che la nostra pelle compie per impedire ai raggi ultravioletti di andare troppo in profondità e rovinarci. Invece uno dice: se mi metto la protezione alto, solo due giorni non mi abbronzo. Mi sta fulminando il professor Di Pietro, perché lei lo sa che tutti quanto vanno al mare solo per due giorni, perché chi è che adesso fa le vacanze lunghe? È già tanto farne due giorni, oppure va fuori con gli amici al lago qua, e dice vabbè, faccio quattro ore, me le prendo tutto. Ma allora, e poi, qual è il guaio? Il guaio è che se si va per due giorni e quindi si va per il weekend e si cerca in due giorni di abbronzarsi come se fossimo lì per una settimana, due settimane, non va bene, perché è l'eccesso. Allora lì c'è l'eccesso di sole, si può evitare di mettere la crema. Se poi lunedì mi scrivete mi sono arrossato, c'ho l'eritema eccetera, io posso dirvi: uomo avvisato, mezzo salvato. Quindi come dobbiamo fare? Allora, se pensiamo di stare tanto tempo sotto al sole, la crema diventa indispensabile per non bruciarci, per non rovinarci e quindi per evitare l'ustione. Protezione alta. Come cioè, numero? Sicuramente i primi giorni il 50 è d'obbligo, ma anche lì dipende dal tempo. Se noi siamo così bravi da restare sotto il sole solamente per 20 minuti il primo giorno, al massimo mezz'ora, ma dipende dall'ora. Non è possibile che uno vada al mare un weekend e stia 20 giorni, allora, 20 minuti, poi a questo esce punto, dalla spiaggia. A questo punto, se vogliamo stare due ore sotto il sole, mettiamo una crema 50. Sì. La crema 50 vuol dire che mi dimezza il rischio di bruciarmi, no? Certo. 6,50, e in questo caso allora io posso stare un po' di più tranquillamente. Ma ancora più importante è difendersi non solo dai raggi ultravioletti, che sono dei raggi fisici come degli spilli che entrano. Allora qui la crema riesce a bloccare questi raggi, ma dobbiamo proteggerci anche dai raggi infrarossi, i quali sono dei raggi termici che passano attraverso la stoffa, passano attraverso anche la lamiera delle automobili, no? Sono i raggi che ci surriscaldano. Questi sono altrettanto pericolosi, ma non se ne parla mai. E i raggi infrarossi, scaldando le cellule, le fanno soffrire. Quindi se le cellule diventano sofferenti, si difendono ancora male e i rischi allora aumentano. Invecchiamo lo stesso, rischi di tumori della pelle e così via. Allora, per i raggi ultravioletti vanno bene le creme. Ma se mettiamo solo le creme, facciamo la fine del pesce al cartoccio. Cioè restiamo bianchi, ma cuociamo dentro e quindi non va bene. Dobbiamo evitare l'eccesso di surriscaldamento, e lì è semplicissimo: basta rinfrescarsi spesso. Se c'è una fontanella, una doccia, rinfrescarsi spesso, oppure munirsi di uno spruzzino da giardiniere pieno di acqua minerale, anche quella che fa le bollicine, va benissimo, e un po' di ghiaccio, e rinfrescarsi spesso la pelle in modo da abbassare la temperatura. Oppure un puccio, come si dice in mare. Oppure un bagno in mare, poi quando si esce sempre acqua dolce per risciacquarsi. Allora, abbiamo detto che avremmo dato indicazioni per rinforzare la pelle e quindi per evitare anche le macchie, o per far sì che quelle famose macchie che color caffè latte, che nascono per una sorta di protezione, un segnale che il cervello dà alla pelle, dice attenzione lì che c'è pericolo e reagisci, che vanno però nel giro di pochi anni. In genere sono 4-5 anni, 4-5 anni massimo, anche 3-4 anni. Integratori, dieta sicuro. Certo, ma flavonoidi, frutti di bosco, frutta colorata che contiene beta carotene, quindi questo serve per aiutare la pelle a difendersi meglio. E anche le creme cosmetiche, creme idratanti, creme nutrienti, che riescono ad irrobustire gli strati più superficiali della pelle e quindi a fortificarli. Creme che contengono glucosamina, ad esempio, sono molto utili, con i fosfolipidi. Ecco, ci sono delle sostanze che sono presenti nelle creme idratanti, nutrienti più moderne della nuova dermocosmesi, che sono molto efficaci nel irrobustire gli strati superficiali. Quindi noi, negli ingredienti, mi spieghi bene cosa vado a leggere? Quelli più nuovi sono i fosfolipidi e la glucosamina. Ecco, sono quelli su cui ce le ricordiamo, ragazze. Io spero di sì. Davide, buongiorno, dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno al professore. Niente, io chiamo in realtà per mio figlio che ha 5 anni e lui dalla nascita ha presentato delle chiazze caffè latte un po' su tutto il corpo, anche di dimensioni diverse, che poi sono aumentate col tempo. Noi abbiamo inizialmente seguito la strada che ci hanno diagnosticato che poteva essere una neurofibromatosi. Siamo in attesa dell'esame del DNA per sapere se è questo. Sì. Però parallelamente, seguendo anche il consiglio di una nostra amica, ci siamo rivolti a un altro specialista, il quale ci ha detto che potrebbe essere causato da queste chiazze da un fungo. Mm-hmm. Da un fungo intestinale. Da un fungo intestinale. Domanda, sì, la mia domanda era proprio sapere se c'è una possibilità che queste chiazze possono essere causate da un fungo. Sì. Allora, professor Di Pietro. Sì, io escluderei questa seconda ipotesi. Non credo che siano causate da un fungo, tra l'altro intestinale, quindi al massimo dovrebbe dare dei problemi intestinali. Queste chiazze caffè latte potrebbero sì far parte di questa forma che è congenita e che si chiama neurofibromatosi. È stata scoperta da un dermatologo, Reglinghausen si chiamava, ed è una forma non frequentissima, però non è poi così rara, e si manifesta con queste chiazze che hanno il caratteristico colore del caffè latte. Possono esserci anche dei rigonfiamenti, dei piccoli noduli, sono dei fibromi cutanei, sì, mollicci, che a volte possono essere anche piuttosto numerosi. Sicuramente quello che sta facendo gli accertamenti per capire se si tratta di questa forma sono giusti. Non si può fare molto, bisogna tenere in questo caso il soggetto sotto controllo e osservare che queste macchie rimangano così sempre tranquille. Possono però non bisogna attenuarsi nel molto. Tempo? Attenuarsi no, perché sono congenite, quindi restano ferme lì. Sconsiglierei anche l'asportazione, perché al posto della macchia poi si formerebbe una cicatrice come un ustione, come una bruciatura. Allora lì bisogna scegliere se si preferisce l'una o l'altra. Comunque non mi allarmerei molto. Comunque escluderebbe la relazione tra fungo intestinale nel e modo più assoluto, macchie. Nel modo più assoluto. Allora, moltissimi messaggi riguardano la doccia dopo il bagno in mare. Perché l'acqua di mare non va bene? Perché l'acqua dolce? Che cosa, professor Di Pietro? L'acqua di mare è buonissima, è ricca di sali, è simile al nostro plasma, quindi l'acqua di mare di per sé può anche essere utile, e quindi riuscire a fare un bagno in mare e tenere su un po' l'acqua di mare sarebbe ottimo. Qual è il guaio? Il guaio è che anche se noi andiamo su una spiaggia, una caletta isolata e deserta e ci andiamo col gommone, dal motore, dal fuoribordo, fuoriesce sempre del gas combusto. Ce ne accorgiamo perché in estate, quando il mare è calmo, vediamo delle mezzogiorno, sono queste chiazze bluastre, no? Intorno al gommone ci sono delle barche, ci sono delle cose. Ecco, allora se noi facciamo il bagno, quando usciamo dall'acqua, questo velo di gasolio che si deposita sulla superficie dell'acqua rimane sulla nostra pelle, no? Quando usciamo, poi questa magari pellicola, scegliamo le creme senza parabeni eccetera, ecco, invece... e poi dopo ci facciamo il bagno vicino al gommone, vicino a una barca, e abbiamo sto gasolio che ci resta sulla pelle, che col sole poi ci dà le irritazioni. Ci ha tolto un po' di poesia, professor Di Pietro. Ci ha portato nella caletta e poi ci ha detto che comunque... No, a meno che si riesca a scendere in una caletta isolata a piedi, facendo a volte centinaia di metri. E allora lì l'acqua di mare è veramente possiamo, anche perché è difficile sarebbe trovare una doccia nella caletta lì, dove si scende. Sì, però l'acqua è pulita e quindi possiamo farlo. Allora, abbiamo velocissimo Gualtiero da Brescia, se mi fa una domanda, perché Gualtiero, io tra poco voglio parlare con la professoressa Raffaella Docimo, che già saluto, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che è presidente della Società Italiana di Odontoiatria Infantile e ordinario a Tor Vergata di Roma, con cui parleremo naturalmente di denti dei nostri bambini, di un convegno molto importante e di un bellissimo legame tra questa società scientifica e Save the Children. Gualtiero, quindi domanda, e prontamente il professor Di Pietro risponde, poi la professoressa Docimo ci racconta tutto e ci dice anche quali sono le macchie di cui dobbiamo preoccuparci e cosa fare per togliere, se si possono togliere. Gualtiero. Domanda velocissima, buongiorno a tutti. Allora, macchie sul collo che probabilmente non sono macchie ma disturbi del microcircolo, perché sono macchie molto estese, molto frastagliate, e premendo sul collo si forma una chiazza bianca che poi ritorna ad essere rosata, sì. color pelle, rosastra, marroncina. Sì. Sì, sono delle macchie piuttosto frequenti, vengono in maniera caratteristica sui lati del collo e a volte possono essere causate anche dalle gocce di profumo molto più spesso le donne, ma anche gli uomini mettono sul collo che macchiano la pelle, perché poi con i raggi ultravioletti danno questi problemi, i vasi capillari si dilatano e ritorniamo. Professoressa Docimo, allora intanto lei è a Napoli per il primo convegno nazionale delle sezioni regionali di questa società italiana dell'odontoiatria infantile, di cui è presidente e che mi piace molto perché è in qualche modo legata a Save the Children, vero, partner? Sì, infatti, le devo dire che siamo molto contenti perché questo è il primo convegno che permette delle sezioni regionali, che permette un confronto fra quelle che sono le realtà territoriali regionali. Voglio dire che si affronteranno gli argomenti di maggiore interesse come la carie e i traumi, e quindi saranno portate quelle che sono le novità in questi, su questi temi, ma certamente il poter affrontare le realtà territoriali sarà un momento di confronto molto importante, anche perché questo permette di ottimizzare quelle che sono le strategie di prevenzione in ambito di odontoiatria pediatrica. Poi, come lei diceva, siamo molto orgogliosi come Società Italiana di Odontoiatria Infantile di essere stati scelti come partner strategico di Save the Children, e con il presidente professor Claudio Tesauro è stato messo a punto un progetto per il quale nelle aree più disagiate, quindi nei punti luce di questa campagna che si chiama Illuminiamo il Futuro, si cercherà di combattere la povertà educativa di bambini dai 6 anni ai 16 anni, e in questo percorso entra l'odontoiatria infantile, quindi la nostra società, con programmi di informazione e di prevenzione. E quindi questo per noi è un momento importante perché il coinvolgimento, devo dirle, da un punto di vista professionale, ma mi permetta anche di dire emotivo, è davvero massimo da parte di tutti i soci nazionali che aderiscono alla nostra società. Bello, è un bellissimo progetto e mi piace raccontarlo agli ascoltatori di Cuore Denari. Professoressa Docimo, abbiamo pochissimi minuti per raccontare invece ai nostri ascoltatori, o meglio, per informare i nostri ascoltatori sulle macchie. Inizierei da quelle dei bambini. Anche i denti dei bambini possono essere macchiati, spesso queste macchie scure preoccupano i genitori. Sì, devo dire moltissimo, perché vi sono delle macchie che sono caratteristiche proprio della dentatura da latte e quindi dei denti da latte, e quindi si manifestano proprio intorno ai 2, 3, 4 anni, ma anche prima, per cui i genitori arrivano molto allarmati perché vedono sui denti dei loro bambini, a livello del colletto dei denti, quindi vicino alla gengiva, queste macchie veramente nere, ecco perché si chiama black stain, macchia nera. Sono dovute alla presenza di un batterio, il Clostridium, che reagendo con la saliva dà luogo a questa pigmentazione. Mm-hmm. Non hanno carattere di patologia, ma certamente sono invalidanti anche da un punto di vista estetico, anche se il bambino è molto piccolo, perché lei comprende bene che un bambino che ha dei denti neri, certo, è un bambino che ha un sorriso non gradevole per sé e ovviamente per i suoi familiari e quindi per il mondo che lo circonda, anche in età pediatrica. E la soluzione qual è? È la rimozione di queste macchie con un'igiene professionale. Devo dirle anche che queste macchie poi, dopo circa un mese e mezzo, si ripresentano, per cui è necessario intervenire nuovamente con igiene professionale fino a quando poi man mano queste macchie scompaiono, anche perché la loro prevalenza è proprio nella dentatura del latte. Professoressa Docimo, proprio ieri abbiamo parlato di fumo. E i denti dei fumatori sono macchiati, sì, quindi bisogna assolutamente smettere di fumare anche per evitare di avere le macchie sui denti. Non ci sono trattamenti, vero professoressa? Ah, guardi, mi dica di no. No, le devo dire questo, che il colore dei denti certamente è determinato geneticamente, certo. Poi ci sono fattori esterni o interni che incidono con la formazione di quelle che noi chiamiamo discromie, quindi delle discolorazioni, fra queste anche il fumo. Ora, bisogna dire che le macchie possono essere transitorie o permanenti e ahimè devo dire che questo è anche in relazione al numero di sigarette che si fumano. Voglio dire che se si è grossi fumatori da tanti anni, queste macchie da fumo che potrebbero essere transitorie e quindi rimovibili facilmente con l'igiene professionale, poi possono divenire permanenti e allora richiedere un trattamento professionale come lo sbiancamento. Però devo dirle anche che insieme a queste macchie da fumo ce ne sono altre. Ce ne sono tante altre, sì. Perché possiamo avere per esempio un eccessivo uso o consumo di fluoro, assunzione di fluoro, ma come possiamo avere anche delle macchie dovute per esempio a dei farmaci. Devo dire che questo era più rispetto a quanto avveniva nel passato, per esempio le tetracicline, scusi se l'ho interrotta. No, ma io purtroppo devo interromperla, anche se mi piacerebbe aprire con lei un capitolo molto interessante, ma la professoressa Docimo tornerà, anche perché la lasciamo al suo convegno di Napoli. Complimenti per questa liaison con Save the Children. Grazie alla professoressa Docimo e grazie soprattutto al professor Antonino Di Pietro, che ci ha accompagnato in tutta questa puntata. Beh, ma è sempre un piacere stare con voi. Grazie, torni presto e noi ci sentiamo domani, ci sarà Deborah e torneremo tutte e due insieme lunedì. Intanto buonissima giornata. Cuore e denari.